America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, nuove turbulenze in Medio Oriente, questa volta in Iran. Gli Stati Uniti, Washington osserva da lontano, per ora non ha espresso una posizione ancora molto diretta. È intervenuto il segretario di Stato Hillary Clinton dicendo che gli Stati Uniti sono sempre solidali con coloro che cercano la democrazia. Per il momento la situazione è allo studio, ma conferma che il calderone medio orientale è esplosivo. La giornata di ieri, tuttavia, sul piano politico ed economico è stata dominata dalla presentazione del bilancio 2012 di Barack Obama. Lo ha inviato ieri mattina in Congresso, vi ho dato ieri delle anticipazioni, 3.000 pagine, pensate, prevede un tasso di crescita del 3,1% per l'anno in corso, del 4% per l'anno prossimo. Soprattutto c'è un tentativo per la prima volta di riduzione di spesa. Questo bilancio federale sarà di 3.730 miliardi di dollari. Il disavanzo pubblico previsto per il 2012 sarà di 1.100 miliardi di dollari, una cifra ancora molto elevata, ma molto meglio di quella che avremo quest'anno, 1.600 miliardi di dollari, vale a dire quasi l'11% del PIL americano. Barack Obama ha anche proposto tagli decennali di circa 1.100 miliardi di dollari. Per il 2018 il rapporto disavanzo PIL sarà sceso al 3%, poco meno del 3%, dunque su posizioni accettabili. Restano ovviamente aperti dei problemi di lungo periodo, non si affrontano in questo bilancio dei problemi strutturali. Di questo parliamo, abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Alberto Alesina, professore di economia a Harvard, visiting professor alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Tagli mirati, come dice Barack Obama, dunque tagliare sì, ma tenere alcune voci di spesa importanti per crescere per il futuro, oppure tagli a tutto campo come vogliono i repubblicani? Qual è la tua posizione su questo? Ma credo che sia il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come si dice. Credo che sia molto positivo che Obama sia passato dalla retorica dello stimolo alla retorica dell'aggiustamento. Questo è il primo punto positivo. Il secondo punto positivo è che l'aggiustamento sia fatto in gran parte dal lato delle spese e non dall'aumento delle imposte, che l'evidenza dimostra che sia il modo migliore per fare gli aggiustamenti. E il terzo punto meno chiaro è se questi tagli mirati siano sufficienti nel lungo periodo a stabilizzare il bilancio. Ci sono aspetti tipo crescita delle spese per pensioni e per la sanità che rimangono un po' non chiaro se saranno sufficienti a stabilizzare questa dinamica di quelli che si chiamano gli entitlement, cioè spese sanitarie e pensioni in primo luogo. Ecco, c'è una voce di spesa in particolare molto interessante, perché secondo me, come sempre, c'è un po' il trucco. Barack Obama aveva ottenuto una riduzione di certe trattenute per spese sociali in busta paga soltanto per un anno, un costo di circa 500 miliardi di dollari, che ha appesantito il disavanzo per il 2011, che sarà addirittura di 1.600 miliardi di dollari, un disavanzo record. Ecco, per l'anno dopo, dice, questo disavanzo migliorerà moltissimo, da 1.600 passeremo a 1.100 miliardi, dunque un grosso miglioramento. Però il miglioramento c'è perché viene reintrodotta questa trattenuta in busta paga. Ecco, dal punto di vista economico è un miglioramento reale, netto, oppure è soltanto un piccolo trucco contabile? Non lo chiamerei un trucco contabile, lo chiamerei una riduzione di imposte temporanee introdotte in un momento di recessione, che si esauriscono, e bisognerà vedere quale sarà l'effetto sull'economia di questa reintroduzione di una tassa che è stata eliminata temporaneamente. E purtroppo sia come economisti che come organizzazioni internazionali che come governi sappiamo abbastanza poco degli effetti di tutti questi cambiamenti fiscali sull'economia. Dovremmo saperne di più, ma è molto difficile da prevedere, quindi staremo a vedere quali saranno gli effetti. Ma credo che, come ripeto, l'aspetto positivo sia l'aver capito che bisogna tagliare le spese, l'aspetto meno positivo è che non è chiaro che questi tagli di spese temporanee siano sufficienti. Ecco, qual è il tuo assessment, la tua valutazione della posizione invece repubblicana, che vuole tagliare tutto? I repubblicani vogliono ovviamente, come sempre, tagliare il più possibile sulla spesa pubblica del governo. Io non credo che tagli proporzionali a tutto siano la strategia migliore. Ci sono spese meno produttive di altre, quindi penso che bisogna agire non con l'ascia ma con criterio. Io penso che ci siano spese discrezionali che possano essere ridotte, ma soprattutto il problema non è tanto sulle spese discrezionali quanto sulla dinamica degli entitlement, per esempio sull'età pensionabile e sulla spesa per health. Quindi più che tagli, che so, del 10% su tutto, bisogna pensare di più a come bloccare certi meccanismi automatici di aumento delle spese. E poi ci sono certe spese che sono più produttive di altre che vanno salvaguardate. Quindi penso che tagli a tout court, 10% su tutto, non abbiano molto senso. Ecco Alberto, ci abbiamo un po' girato intorno, adesso siamo arrivati un po' più al cuore del problema, cioè prima abbiamo parlato di a breve forse ha fatto bene, a lunga forse c'è qualche preoccupazione, hai accennato all'età pensionabile, hai accennato alle spese sanitarie. Ecco, una delle critiche è che questi due elementi che sono più strutturali non sono stati ancora toccati. Da più parti, soprattutto negli ambienti finanziari a New York, ci sono preoccupazioni, e cioè che il non affrontare alcuni problemi strutturali possa indebolire fisiologicamente gli Stati Uniti e rendere il paese vulnerabile nel caso questi problemi dovessero emergere a degli attacchi non dissimili a quelli che abbiamo visto in Europa. Domanda numero uno: quanto è urgente affrontare un innalzamento dell'età pensionabile, per esempio, o una ristrutturazione della riforma sanitaria? Credo che sia molto urgente. È difficile immaginarsi degli attacchi speculativi agli Stati Uniti come quelli che abbiamo visto per la Grecia e Portogallo, perché gli Stati Uniti hanno una, diciamo, capacità di reazione e una solidità fiscale diversa. Però credo che gli Stati Uniti siano abbastanza con le spalle al muro su questo, quindi credo che su questi problemi, età pensionabile, riforma sanitaria o cambiamenti nella riforma sanitaria che riducono i costi, saranno questi i due problemi su cui si scontrerà Congresso e Presidente nei prossimi due anni. Credo che ci siano due visioni su questo: uno di deadlock, per cui non fanno altro che litigare e non si conclude niente, oppure la visione ottimistica di moderazione, cioè un governo diviso che produce compromessi e non incapacità di governare. Storicamente il governo diviso negli Stati Uniti ha prodotto compromessi. In questo momento siamo in un momento particolarmente ideologicamente caldo, per cui le divisioni ideologiche sono molto forti. Io rimango relativamente ottimista che questo paese riesca a trovare una via d'uscita, però sicuramente questi problemi non possono essere rimandati di molto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri era San Valentino, se qualcuno di voi si è dimenticato di fare gli auguri alla dolce metà, beh, vi do un'altra opportunità, perché Yes Air hanno regalato ai loro fan un nuovo single che si intitola I Remember. Si può scaricare gratis o inviare in dono a fidanzate e fidanzate dal sito della band, dei Yes Air, I Remember. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.